una di queste scampagnate che fanno in questi prati verdi, mia figlia, con gli amici, fanno certe scampagnate, guardi, voglio guardare. C'è tutto. Ogni tanto mia figlia mi mandava dei video di concerti, che bello. Avanti Giuseppe. No, Giuseppe se n'è andato. No, magari l'hanno chiamato, capito? Perché se già le torno qua, tu hai fatto quello che andare a portare il cane giù. È già quasi ora di portarlo, vai. Quindi mi devo mettere a fare il sugo. Italia, Monza Rossa, Bologna e... sembrano una città proletaria e cara. Sempre il DJ, ha fatto diversi album eccetera eccetera, lui era molto impegnato nella musica, tuttora lì la sta portando avanti, però ha anche un lavoro fisso che gli dà uno stipendio, capito? Eh beh certo, ma Bologna ti ripeto, guarda che è praticamente là, il centro del, come si dice, il centro del mondo in un certo senso, ovviamente, sia a livello musicale, a livello discoteche, a livello di tantissime cose, quindi ha fatto bene ad andare lì, si ha determinati passioni e penso che insomma riuscirà sicuramente, sei bravo riuscirà sicuramente, non c'è problema. Poi è chiaro, sì, ci vuole pazienza e non è che arriva tutto subito, perché in quel settore lì poi c'è anche molta concorrenza, però è, diciamo così, è una città che, ripeto, a livello artistico offre tantissimo e poi anche a livello insomma di lavoro, di tante cose. Bologna è, come dire, è uno dei cuori pulsanti dell'Italia, dopo Milano, Roma eccetera, quindi è così, funziona in quel modo. Chiaro, ha i suoi aspetti positivi ma ha anche quelli negativi, per esempio a Bologna non puoi girare in macchina. Se giri in macchina è a tuo rischio e pericolo, è piena di T-Red, di, come dire, di autovelox, i vigili ce ne sono a migliaia, che non è come qua che se tu sei in divieto ti fischiano, no, a Bologna non ti fischiano, arrivano lì, ti fanno la multa e poi te la tieni, hai voglia di discutere, capito? Quindi vivono anche di questi espedienti qua. Ecco, e da quel punto di vista lì a me quella città non piace, perché è troppo dispendiosa in quel senso, quindi insomma... Positivi e negativi, come da tutte le parti, hai capito Gianni? Qui c'è il positivo e il negativo, là c'è il positivo e il negativo, quindi. Però offre molto, molto, molto di più, ecco, come vivibilità, diciamo, e anche come cultura. Certo che Sassari potrebbe essere, Sassari, Cagliari, insomma tutta la Sardegna, potrebbe essere anche il top, però purtroppo essendo un'isola, avendo collegamenti, hai capito che, insomma... è un po' più difficoltoso tutto qua. Però meglio così da un lato, perché magari è un po' meno popolata e quindi rimane grezza e anche più piacevole da vedere. Sì, ma mia figlia è contenta di stare lì, perché lei dice, quando sei in Sardegna, dove vai vai, sempre in Sardegna rimani qua. Posso girare da tutte le parti, ho visto diverse città, voglio andare a Milano, vado a Milano, voglio andare a Roma, vado a Roma, capito? Posso girare da tutte le parti. E poi lì praticamente fanno, organizzano delle gite fuori, anche fuori diciamo all'estero, capito? Fanno delle gite con queste ragazze eccetera eccetera, quindi lei è sempre in giro, sempre girando, ogni tanto mi scrive da Bruxelles, mi scrive da qua, mi scrive da là, da tutte le parti, perché girano molto, fanno dei progetti diciamo per far girare questi ragazzi, queste ragazze madri, capito? In più lei c'ha un bambino autistico che va a insegnargli a scrivere, a leggere, a disegnare, e quello lo fa la sera, la mattina lavora, la sera va da questo bambino autistico, quindi diciamo poi lavora anche Samuele e quindi già stanno bene, dai, non si possono lamentare. Sì, sì, ma ripeto, guarda che là a livello di organizzazione, cioè c'è tantissimo, Lì fanno presto, vogliamo fare una gita, benissimo, organizziamo, cioè la gente lavora, non ha problemi di lavorare, capito? Come ci sono qua al sud, e non solo qua in Sardegna, ma io ho girato anche, sono stato in Calabria, sono stato un po' in zone campane, così, però, ripeto, qua al sud c'è una brutta malattia che si chiama mandronia, e non mi vergogno a dirlo, perché comunque è così, purtroppo, ma è dovuto al fatto che si sta in queste zone qui. Su invece c'è tutto un altro ambiente, c'è tutto un altro movimento, c'è tutto un altro meccanismo di fare le cose, e le cose funzionano, ecco, in questo senso qui. Qui magari ci sono delle cose che non funzionano, ma probabilmente la gente si sente anche un po' scoraggiata nel poter far funzionare un meccanismo che non è oliato e capito che non funziona come dovrebbe. Quindi è per questo che ti dico, io dopo averci vissuto 50 anni noto la differenza, capito? E quindi ti dico che là è un attimo, tu vuoi andare, bene, organizziamoci, ci mettiamo lì, ta ta ta ta, domani mattina è tutto fatto, è tutto a posto, capito? Quindi è una cosa molto veloce, perché? Perché c'è l'abitudine appunto a fare, a progettare, a fare e portare a termine le cose, quindi ci credo, le ho vissute anch'io queste cose qua, Poi un po' a scuola anche con mio figlio, le superiori, andavano in Germania, andavano in Inghilterra, andavano dove dovevano andare per imparare, quindi insomma c'è ci sono queste cose che le gestiscono molto bene, capito? Persone apposite che gestiscono questi tipi di cose, questi tipi di viaggi, hai capito? Proprio per avere così una nozione anche a livello estero, hai capito? È tutta esperienza, diciamo. È proprio cultura, è una cultura che hanno loro, dai. A me mia figlia me lo dice sempre, che è tutto un altro mondo, che qua si sta bene a fare le vacanze, là per il lavoro muori uno e trovi l'altro, cioè hai spazi molto, capito, anche col lavoro. Vabbè, dai, io ti devo lasciare, Mario, perché devo portare giù il carro, è venuto a chiamarmi, lui viene a chiamarmi quando deve scendere, mi chiama e mi avvisa, quindi si sta lamentando adesso e vuol dire che vuole scendere, dai. Ci sentiamo, Mario, mi ha fatto piacere fare queste quattro chiacchiere, qua ti sento meravigliosamente, però là no, bisogna che magari lo fai mettere in frequenza lì, che te lo guardi qualcuno che lo sa guardare, dai. Ci sentiamo, Mario, buona giornata, anzi buona serata. Ah, bene Gianni, dai, non c'è problema, ma vedrai che c'è qualcosa che in AM ho impostato male io, perché andava bene fino a poco tempo fa, poi adesso vediamo, approfondirò questa cosa. Ciao Gianni, quando il cane chiama bisogna andare, perché mica sono ignoranti, sono molto intelligenti gli animali. Ciao, buona serata anche a te, ci sentiamo alle prossime, ciao. Naturalmente un saluto anche agli SWL, bye bye, buona serata. Ciao, ciao Mario, ciao. Giuseppe, non so se si è chiuso, che cosa ha fatto. Ci sentiamo, ciao Mario, stammi bene. Ciao, buonasera, ciao anche a Giuseppe, se lo senti, ciao.